Europa 24. Cari ascoltatori, un benvenuto ancora al nostro spazio europeo. Oggi partiamo da Moscovici, dunque il commissario europeo affari economici. Oggi infatti è giornata di valutazione di pagelle, dicono alcuni. Moscovici dunque presenta le previsioni economiche di primavera, naturalmente non solo dell'Italia, dei 28, ma noi ci occupiamo delle nostre, e parla anche delle valutazioni europee sul bilancio italiano. Un no comment per adesso, che sembra però segnato da un certo ottimismo. Moscovici dice: abbiamo avuto molti contatti con gli amici italiani, ho incontrato Padoan più di 10 volte, e dice il commissario agli affari europei, agli affari economici europei, questo dimostra che dedichiamo la massima attenzione alla situazione italiana e cerchiamo di trovare un'intesa. Adesso sulle previsioni il servizio di Valeria De Rosa. Previsioni economiche della Commissione, non decisive ma importanti, perché danno il polso dell'aria che tira a Bruxelles. Non ottimismo a pieni polmoni, ma nemmeno nubi scure. Ritoccate leggermente al ribasso le stime di crescita dell'area euro, più 1,6% il PIL quest'anno e un più 1,8% nel 2017. In entrambi i casi i valori indicati nelle previsioni appena pubblicate sono di un decimale di punto più bassi rispetto a quelli inseriti nelle stime di 3 mesi fa. Lo dice il commissario Moscovici, la crescita è positiva ma modesta, alcuni dei fattori finora favorevoli hanno cominciato a svanire e c'è stato un rallentamento delle economie principali. Continua però il calo della disoccupazione nell'eurozona al 10,3% per il 2016. Il tasso scenderà ancora ma rimarranno differenze nel mercato del lavoro ancora per qualche tempo. Rivista di nuovo al ribasso l'inflazione, più che dimezzata allo 0,2% dallo 0,5% di febbraio. Dovrebbe risalire in modo più significativo nella seconda metà dell'anno. In Italia la crescita prosegue nel 2016 e 2017 con la ripresa della domanda interna. Rivisto al ribasso il deficit, mentre cresce la stima sul debito al 132,7% nell'anno in corso. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Italia apre i primi corridoi educativi per studenti migranti che avranno accesso alle università italiane. Il progetto viene presentato nel pomeriggio a Roma dal ministro Giannini e dall'europarlamentare Silvia Costa. 50 studenti e ricercatori profughi avranno accesso ad un percorso di alta formazione per la valorizzazione dei beni culturali. L'Italia è il primo paese ad attivare i corridoi educativi chiesti dall'europarlamentare Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. A ottobre dell'anno scorso ha lanciato l'appello alle università europee. 6 mesi dopo il progetto è diventato realtà in Italia. Il Politecnico di Torino, Ca' Foscari e IUAV di Venezia hanno attivato un percorso di alta formazione per 50 studenti profughi. 8 mesi di formazione residenziale in Italia per poi tornare nei propri paesi con competenze specifiche nella tutela e restauro dei beni culturali. Oggi pomeriggio il ministro dell'istruzione Stefania Giannini firmerà al MIUR il protocollo d'intesa EU for Refugees, l'università per i rifugiati, per strutturare l'iniziativa e coinvolgere altri atenei nazionali. Di fronte alla crisi culturale e politica di un'Europa che chiude le frontiere e preclude il suo futuro, ha detto l'europarlamentare Silvia Costa, la migliore risposta viene dall'investimento nelle nuove generazioni europee e euromediterranee, che ci chiedono di essere coerenti con i valori di solidarietà e di ponti di pace, che sono l'essenza stessa dell'Unione Europea. Silvia Bernardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E infine parliamo di ambienti ed emissioni. L'Unione Europea tra il 2014 e il 2015 ha visto un aumento dello 0,7% delle emissioni di CO2 prodotte per consumi energetici con la combustione di combustibili fossili. Lo riferisce Eurostat, secondo cui l'Italia su questo fronte ha segnato una crescita del 3,5% con una quota di CO2 del 10,6% rispetto al totale dell'Unione. Insomma, Italia terza in questa classifica dopo Germania e Gran Bretagna. Secondo i dati di Eurostat, le emissioni CO2 per l'uso di energia sono aumentate nella maggioranza dei paesi dell'Unione Europea. E con questa notizia è tutto per il nostro appuntamento europeo. Naturalmente ci sentiamo di nuovo domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.